Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Caso Iaras, al processo parla una testimone, vidi Bossetti e una ragazzina con l'apparecchio che saliva sull'auto con lui. La Francia conduce operazioni segrete in Libia, scrive Le Monde, ipotesi di un piano B per il paese con la divisione in tre e la Tripolitania affidata all'Italia. È stata bocciata la legge della regione Lombardia per vietare la costruzione di moschee. Salvini attacca, la consulta è islamica. La Corte Costituzionale oggi è stata anche chiamata a decidere sull'adozione del figlio del partner, la cosiddetta stepchild adoption, e ha dichiarato inammissibile il ricorso di due madri. Intanto sulle unioni civili il nuovo centrodestra alza la posta. L'eliminazione della stepchild, dice Lorenzin, non basta. Sempre più vicina la nomination repubblicana per Donald Trump, vince anche in Nevada, ora riflettori puntati sul cosiddetto super martedì, il 1 marzo. Un bambino di terza elementare propone una nuova parola e la Crusca ci pensa, scatta una piccola mania per l'aggettivo petaloso. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, il 349-238-6666, tanto per i vostri sms quanto per i messaggi su WhatsApp. In apertura dunque parliamo di cronaca con il caso della morte di Yara Gambirasio, la ragazzina della provincia di Bergamo scomparsa, lo ricorderete, nel novembre del 2010, il cui corpo fu ritrovato 3 mesi dopo in un campo. Il processo prosegue e spunta una nuova testimone. Un uomo dagli occhi azzurri, quasi bianchi come quelli di una volpe. Con queste parole una donna di 55 anni ha descritto l'uomo che aveva visto anni prima su una station wagon grigia in compagnia di una giovane ragazza nel parcheggio del cimitero di Brembate di Sopra. Un uomo che la donna ha riconosciuto come Massimo Bossetti, imputato dell'omicidio di Yara Gambirasio. Un ricordo emerso un giorno davanti alla TV. La vita in diretta trasmetteva le immagini di Bossetti e di quel parcheggio e la donna, dice, ha ricostruito tutto. Davanti alla Corte d'Assise di Bergamo ha raccontato di aver visto Bossetti in due occasioni, una prima volta tra la seconda metà dell'agosto 2010 e la prima di settembre nel parcheggio del cimitero, dove l'uomo, dopo averla fissata con forte intensità dall'interno della sua auto, è stato raggiunto da una ragazzina con i capelli lunghi. Una seconda volta aveva visto l'uomo in un supermercato. L'ho riconosciuto, ha detto, come il signore del parcheggio e sono sicura che fosse lui perché aveva gli stessi occhi e lo stesso sguardo. Marta Cagnola, Radio 24. Il Sole 24 Ore. Questo il quadro dal caso Yara. Ora andiamo alla situazione in Libia. Mentre spunta l'ipotesi di una sorta di piano B con la divisione del paese in tre, emergono dettagli su presunte operazioni coperte della Francia nel paese. Dopo il via libera all'utilizzo della base di Sigonella da parte dell'Italia, potrebbero scattare già dalla prossima settimana i raid dei droni statunitensi contro le postazioni dell'ISIS in Libia. Sul terreno, secondo quanto rivela oggi il quotidiano Le Monde, le forze speciali francesi starebbero già effettuando operazioni segrete per contrastare l'espansione dei terroristi dello Stato Islamico, che prima di essere respinti, oggi per alcune ore hanno preso il controllo del quartier generale della sicurezza a Sabrata, decapitando 12 guardie. I rischi di un'escalation e lo stallo nella formazione del nuovo governo di unità nazionale, che dovrebbe poi chiedere un intervento internazionale, preoccupano le diplomazie occidentali. Gli Stati Uniti e i loro alleati avrebbero comunque già pronto un piano B nel caso dovessero naufragare gli accordi raggiunti dalle fazioni libiche grazie alla mediazione dell'ONU. Il piano ipotizza una divisione del paese in tre regioni, la Cirenaica e il Fezzan, che finirebbero sotto la protezione di Gran Bretagna e Francia, e la Tripolitania, il cui controllo spetterebbe invece all'Italia, che per questo dovrebbe inviare un contingente di almeno 5.000 militari. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi ci sono gli effetti del caos che domina la parte del mondo nella quale è attivo l'autoproclamato califfato, quelle sull'immigrazione. Dall'Italia le notizie di nuovi sbarchi in Sicilia, a Pozzallo con oltre 300 persone arrivate nelle ultime 24 ore, mentre le tensioni continuano ad addensarsi intorno alla decisione austriaca di ripristinare i controlli al confine, di convocare tra l'altro un vertice L'esclusione del nostro paese dall'incontro organizzato dall'Austria sulla crisi dei profughi viene visto come un atto non amichevole, così il ministro degli esteri greco Nikos Kotsias. C'è un altro luogo di tensione ed è Calais, dove c'è la cosiddetta giungla, questa sorta di luogo dove sono raccolti moltissimi migranti in attesa di cercare di arrivare in Gran Bretagna e che sarebbe vicino allo sgombero. Si trova là Leonardo Martinelli. Leonardo, buongiorno. Buongiorno, sì, mi trovo proprio all'interno della giungla, in una parte dove sono stati allestiti finalmente, dopo tanti anni, da parte dello Stato francese alcuni container dove ospitare alcuni di questi migranti, ma tutto intorno appunto c'è quella che si chiama la giungla, 5.000 persone che vivono in baracche con del cellophane, sotto la pioggia, il freddo, nel fango. L'idea della Francia è smantellare la parte sud di tutta questa baraccopoli, che è la più grande baraccopoli di profughi dell'Europa. Però le associazioni di volontari fanno resistenza perché non è chiaro dove poi andranno tutte queste persone, anche perché queste persone hanno una sola idea in testa: andare dall'altra parte della Manica in Inghilterra. Questo il quadro generale. Dal lato dello sgombero, appunto, che dovrebbe arrivare, che idea ti sei fatto stando là? Potrebbe essere vicino? Guarda, doveva essere in realtà oggi, c'era una sorta di ultimatum ieri alle 20 che però è stata rimandata proprio per le proteste delle associazioni. Il giudice ha detto che darà la prova, che prenderà una decisione in 48 ore. La mia impressione è che ci saranno forse anche altri rinvii, perché lo Stato francese vuole evitare qualcosa, diciamo, di violento, vuole evitare degli scontri, e qui le persone che abitano in questa parte della giungla, che è veramente in condizioni igieniche disastrose, in realtà non se ne vogliono andare via, perché non vogliono andare via da qui. Significherebbe chiedere l'asilo in Francia, e invece loro vogliono passare la Manica e rifarsi una vita in Inghilterra. Grazie a Leonardo Martinelli, in diretta dunque da Calais. Veniamo alla politica, che si compone ancora di due fronti. Da una parte le unioni civili, con la composizione progressiva del cosiddetto maxi emendamento, e che, come già vi dicevamo dai titoli, già crea qualche problema, perché il nuovo centrodestra ha iniziato a chiedere di più del solo stralcio della stepchild adoption. Dall'altra parte le rivelazioni di WikiLeaks sull'NSA, la National Security Agency americana, che ha spiato i collaboratori di Berlusconi nella fase acuta della crisi del 2011. Quindi facciamo un punto e iniziamo proprio dalle unioni civili con Elisabetta Fiorito. Buongiorno Elisabetta. Sì, buongiorno. Il nuovo centrodestra alza ancora il tiro sulle unioni civili, e stavolta il ministro della salute Beatrice Lorenzin a dire che lo stralcio della stepchild adoption non è sufficiente, occorre evitare qualsiasi equiparazione tra unioni civili e matrimonio, proprio nel giorno in cui Palazzo Chigi, il governo, sta mettendo a punto il maxi emendamento che esclude il capitolo di adozioni e che è già considerato un compromesso al ribasso dalla sinistra PD. Infatti Michela Marzano, deputata Dem, minaccia di dimettersi dal partito se non verrà approvata una legge con il capitolo adozioni. L'esame delle unioni civili inizierà soltanto stasera, dopo il voto di fiducia in Senato sul milleproroghe. Slitta quindi la presentazione del maxi emendamento e la richiesta di fiducia da parte del governo, che potrebbe essere richiesta quindi domani, perché le forze di opposizione hanno chiesto tempo per poter leggere il maxi emendamento, e tra cui ci sono anche alcuni senatori di Forza Italia. Intanto Alberto Airola del Movimento 5 Stelle chiarisce sugli SMS alla senatrice del Democratici Monica Cirinnà, che secondo lui ha voluto forzare la mano sulla possibile apertura dei 5 Stelle al super canguro. Simone? Sì, Elisabetta, tra l'altro oggi la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso sul caso di due donne sposate negli Stati Uniti e che si erano trasferite a Bologna, che chiedono il riconoscimento dell'adozione di due figlie. A sollevare il caso era stato proprio il Tribunale di Bologna, e di questo parleremo più avanti con l'avvocato delle due donne. Veniamo intanto all'altro fronte politico, che è quello di WikiLeaks. Elisabetta. Sì, allora il centrodestra passa all'attacco dopo le rivelazioni per Matteo Salvini della Lega. Bisogna rimettere in discussione questa onnipresenza degli Stati Uniti in Italia da tutti i punti di vista. Anche Renato Brunetta accusa: non mi meraviglio, gli americani spiavano tutto e tutti, quindi spiavano certamente il governo, come anche il capo dello Stato. Mi aspetto che escano intercettazioni delle telefonate del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, per esempio, ad Angela Merkel. Ricordiamo l'antefatto: secondo WikiLeaks, gli Stati Uniti spiavano Silvio Berlusconi quando era Presidente del Consiglio nel 2011, in prossimità delle dimissioni del suo quarto mandato, e la Farnesina convoca oggi l'ambasciatore degli Stati Uniti. Da Washington arriva la risposta: non sorvegliamo senza un valido motivo. Si svolgerà intanto però oggi alle 15 il Question Time qui a Montecitorio, dove il Ministro delle Riforme Costituzionali Maria Elena Boschi risponderà ad un'interrogazione presentata proprio da Forza Italia. Te, Simone. E grazie Elisabetta Fiorito. Abbiamo parlato della decisione della Corte Costituzionale sul caso della stepchild adoption. C'è un'altra decisione della Corte Costituzionale che oggi fa discutere, perché ha bocciato la legge della Regione Lombardia cosiddetta anti-moschee. È stato dunque accolto il ricorso presentato dal governo. La norma, votata un anno fa, ne parlammo anche ad effetto giorno, prevede procedure urbanistiche specifiche ed onerose, violerebbe il principio della libertà di culto. Su questo fronte Matteo Salvini, leader leghista, attacca, dice: la Consulta è islamica, non è italiana. È stata notte di primarie anche questa negli Stati Uniti. We love Nevada, we love Nevada, thank you. A couple of months ago, la voce è di Donald Trump, che non si ferma e prosegue la striscia positiva di vittorie dopo il trionfo nelle primarie di New Hampshire e South Carolina. Possiamo vincere la nomination in meno di 2 mesi, esulta. Trump ha dominato sugli avversari con oltre il 46% dei voti. In South Carolina, prossimo terreno di scontro invece tra i democratici, in un dibattito tra Hillary Clinton e Bernie Sanders, si delineano strategie diverse. Lui attacca Trump, la Clinton dice: basta toni violenti. Tutto questo naturalmente torneremo a parlare con Mario Platero in America 24. Un aggiornamento importante dai mercati, perché in questi ultimi minuti le cose stanno nettamente peggiorando anche sulla scorta dell'andamento del prezzo del petrolio, con il WTI, quello quotato negli Stati Uniti, con consegna d'aprile in calo del 3,5%, a ridosso i $30 al barile, poco sopra il Brent, quello quotato a Londra, il petrolio del Mare del Nord, giù del 2,5% a $32,4 al barile. Come si diceva, l'impatto sui mercati è abbastanza pesante. Milano perde il 2,3% in questo momento, il 2,12% perde il FTSE All Share, Francoforte perde il 2,4%, Parigi il 2,2% e Londra 1,5%. Come sempre approfondiremo i mercati alle 13.30 con i colleghi di Radio Core, Il Sole 24 Ore. Si apre oggi la settimana della moda e si apre sotto queste insegne dal punto di vista economico. Da oggi a lunedì prossimo Milano è la capitale mondiale della moda donna. In 6 giorni sfileranno, verranno presentate in showroom 184 collezioni per l'autunno-inverno 2016-2017, il 30% in più rispetto alla tornata del febbraio 2015 e un record dal 2009. Non solo. Oggi si apre Linea Pelle, fiera dedicata alla filiera della conceria, e sabato sarà la volta del Mido, il più importante appuntamento mondiale per gli occhiali. Sempre durante la Fashion Week si svolgeranno le fiere del Prêt-à-Porter, Mipap, White e Super, a dimostrazione che Milano è la vetrina di un intero sistema del tessile abbigliamento moda e che le sfilate sono solo la punta dell'iceberg. Un iceberg da 570.000 addetti, 62 miliardi di fatturato nel 2015, cresciuto, nonostante la frenata del quarto trimestre, dell'1,4%. E con un fatturato atteso per il primo semestre 2016 in salita del 2,5%. Numeri che non devono essere sfuggiti al Premier Matteo Renzi, che oggi inaugura ufficialmente Milano Moda Donna accanto al sindaco Giuliano Pisapia e al presidente della Camera della Moda Carlo Capasa. Non era mai successo che un Premier in carica si esponesse tanto per la moda, né in Italia né all'estero. Giulia Crivelli per Radio 24, Il Sole 24 Ore. E più tardi andremo a collegarci con Raffaella Calandra, che sta seguendo l'inaugurazione, sta iniziando proprio in questi minuti. Il Presidente del Consiglio, a quanto pare, è appena arrivato. Abbiamo parlato di mercati, ebbene, parliamo della lettera della finanza londinese e la prospettata fusione tra Deutsche Börse e London Stock Exchange, che intervengono in pieno dibattito sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Sentiamo. Per crescere e dare lavoro, le imprese britanniche devono poter accedere senza limiti al mercato europeo. Quindi no alla Brexit, sostengono i 200 amministratori delegati che hanno sottoscritto la lettera pubblicata dal Financial Times, in cui perorano la causa del Premier Cameron. Bisogna restare nella UE, dicono, alle nuove condizioni trattate con Bruxelles. 36 dei firmatari sono dei veri big del FTSE 100, Shell, BP, Vodafone, Goldman Sachs per dirne qualcuno. Sono solo un terzo delle prime 100 imprese quotate a Londra, ribattono dal fronte del no alla UE, accusando il Premier Cameron di avere orchestrato l'operazione per rilanciare il suo accordo dopo i colpi infertili dal no di ben 6 componenti del suo governo, nonché dell'influente sindaco di Londra Boris Johnson. Vero è che molti non firmatari hanno spiegato di non essersi espressi per politica aziendale o per evitare difficoltà nei rapporti con i clienti. Difficile quindi tirare le somme delle posizioni nella City. City che tra l'altro è elettrizzata in queste ore anche dal nuovo slancio preso dai colloqui per una fusione tra pari delle borse di Londra e Francoforte, il che creerebbe uno dei mercati più grandi del mondo. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi adesso nella seconda parte della trasmissione ci occuperemo di due temi. Da una parte questa sentenza della Corte Costituzionale, della quale vi accennavamo poco fa, e riguarda la cosiddetta legge antimoschee della Regione Lombardia, una legge che appunto è stata bocciata dalla Consulta. E dall'altra parte una piccola storia che sta facendo furore sui social media e che però abbiamo trovato affascinante. Un bambino di terza elementare ha scritto in un tema una che non esiste, è un aggettivo che è petaloso. La sua maestra ha scritto all'Accademia della Crusca, che ha risposto, e adesso si sta cercando di far entrare questa parola nel dizionario. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli, la cronaca in primo piano oggi col caso Iara, al processo parla una testimone, dice Vidi Bossetti, una ragazzina con l'apparecchio che saliva sull'auto con lui. È stata bocciata la legge della regione Lombardia per vietare la costruzione di moschee, Salvini attacca, la Consulta è islamica, ne parliamo tra un attimo. La Francia conduce operazioni segrete in Libia, scrive Le Monde, ipotesi di un piano B per il paese con la divisione in tre e la Tripolitania affidata all'Italia. Sulle unioni civili torna ad alzarsi il livello dello scontro, questa volta all'interno della maggioranza, perché il nuovo centrodestra chiede ulteriori modifiche oltre all'eliminazione della stepchild adoption, ossia l'adozione del figlio del partner. Sempre più vicina alla nomination repubblicana per Donald Trump, vince anche in Nevada, ora riflettori puntati sul cosiddetto Super Martedì, il 1 marzo. Davide Piccardo, coordinatore del CAIM, il coordinamento delle associazioni islamiche di Milano, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Vabbè, a voi. Immagino che su questa sentenza arrivata dalla Consulta, che arriva dopo un ricorso del governo con la legge, contro la legge cosiddetta anti-moschee della Regione Lombardia, vi dia soddisfazione, no? Sì, sicuramente oggi è un bel giorno, esprimiamo piena soddisfazione per l'esito appunto del procedimento alla Corte Costituzionale. Secondo noi era ampiamente scontato, anche perché la Regione si è mossa nonostante avesse avuto 2 avvertimenti dall'ufficio legale della Regione, che appunto preannunciavano che questa norma sarebbe stata assolutamente incostituzionale. Cioè, gli stessi uffici della Regione gli avevano detto occhio che questa legge è a rischio, se va alla Consulta sicuramente ve la boccia. Infatti mi immagino anche l'imbarazzo dell'avvocatura regionale nel giudizio di fronte alla Corte Costituzionale a difendere qualcosa che avevano già smentito precedentemente. Sì. E sono state utilizzate le istituzioni in maniera persecutoria nei confronti di una minoranza religiosa che conta più di 400.000 cittadini in questa regione, e questo lo riteniamo molto grave. Quindi Senta Piccardo, vorrei però arrivare al concreto, no? Perché ci sono vari progetti in realtà per la realizzazione di una moschea proprio a Milano. Se non sbaglio ci sono 3 aree identificate, ma al momento è tutto bloccato dal TAR per uno scontro tra associazioni, ho capito bene? No, questa è un po' la versione che è stata fatta circolare dall'amministrazione come alibi per giustificare i ritardi nel bando. Il bando ha già avuto le assegnazioni, cioè 3 assegnazioni provvisorie. Una di queste è stata contestata da una delle associazioni, e quindi adesso non è pendente di fronte al TAR, perché il TAR ha già deciso che l'associazione ricorrente aveva ha ragione, e il Consiglio di Stato, il Comune ha fatto un ricorso al Consiglio di Stato. Però il punto più importante di tutta questa vicenda è che sulle altre due assegnazioni non c'è nessun tipo di ostacolo e nessun vincolo con l'altro ricorso, quindi il Comune può perfettamente procedere all'assegnazione. Perfetto. Definitiva. Quindi tolta questa legge, in sostanza il Comune a questo punto può procedere. Lo poteva fare anche prima, adesso a maggior ragione non ha più nessun tipo di ostacolo. Dove sorgeranno queste tre moschee? Allora, in realtà sono due, perché una è stata aggiudicata a una chiesa evangelica. Una è l'Area Grande, è ex Palasharp, quindi nord-ovest di Milano. L'altra invece si troverà in via Padova, una zona con un'alta, diciamo, densità di cittadini musulmani, e invece l'area dedicata a chiesa evangelica sta collocata nel sud della città. Lei sa, Piccardo, qual è il grande tema qua, no? Quello sul quale si basa anche la Lega. Dice le moschee possono essere a rischio perché possono, come dire, rappresentare il fulcro di un indottrinamento all'estremismo islamico. Sì, questo va a tutto da dimostrare, anzi lo smentiamo categoricamente, però c'è un fatto più che... oggi ci sono 700 luoghi di preghiera informali in tutta Italia, esistono già e nessuno li mette in discussione, quindi esistono. Non vedo come si può peggiorare la situazione realizzando strutture ufficiali a luce del sole attraverso procedimenti pubblici trasparenti in cui chi le realizza si mette di fronte all'amministrazione, si sottopone alle leggi, firma dei contratti. Cioè è una cosa che non sta né in cielo né in terra, cioè essere visibili, trasparenti, ufficiali, riconoscibili è qualcosa che può solo che beneficiare la sicurezza di tutti. La ringrazio, grazie a Davide Piccardo, coordinatore del CAIM, il coordinamento delle associazioni islamiche di Milano, per le sue valutazioni. E buongiorno a Margherita Aurora, che è l'insegnante della scuola Marchesi di Copparo. Spero di aver messo Copparo, ho messo l'accento nel posto giusto. E siamo in provincia di Ferrara e sta facendo furore sui social network, ma non solo, la vicenda che lei ha raccontato con un post su Facebook. La vicenda riguarda un suo alunno, un bambino di terza elementare, che in un tema ha tirato fuori questa parola petaloso. Non proprio in un tema, si trattava di un'esercitazione sugli aggettivi, per cui avevo dato dei nomi e a ciascun nome bisognava abbinare due aggettivi. Per il fiore Matteo ha scelto profumato e petaloso. E petaloso, che è bellissimo e ovviamente molto tenero, fatto da un bambino, certo, di terza elementare. Lei ha scritto all'Accademia della Crusca a questo punto. Quando abbiamo visto che l'aggettivo era bello, Matteo ha detto ma non potrebbe andare nel dizionario. E io ho detto non so che cosa si preveda come iter per andare nel dizionario, e quindi proviamo. E la Crusca, e l'Accademia della Crusca, giudice supremo di queste vicende, le ha risposto dicendo cosa? L'Accademia ha risposto in maniera splendida, perché intanto ci ha mandato una lettera molto a misura di bambino, il cui contenuto era assolutamente comprensibile. Ha fatto delle valutazioni rispetto al termine, dicendo che il termine è bello e ben strutturato. Però ovviamente per entrare a far parte della lingua è necessario che questo termine venga conosciuto e utilizzato. Dice tra l'altro la Crusca è corretta la formulazione, perché esempio appunto esiste anche generoso, cita esattamente peloso, questo esempio, no? Peloso, sì, esatto, e così via. Effetti, e quindi è un aggettivo ben sì, strutturato, prego. In effetti come tipo di errore, questo non è un errore, si tratta di... dal punto di vista grammaticale di una ipergeneralizzazione, cioè Matteo ha applicato una regola in realtà, e quindi dopo il fatto che in questo caso non fosse applicabile è secondario alla fine. Io poi che la penso come Rodari, cioè che gli errori servano tanto e servano sempre, sono convinta di aver fatto la cosa giusta. Benissimo, e adesso sta partendo una vera e propria mobilitazione in rete, l'avrà visto lei, no? Abbiamo Petaloso che è in cima alle tendenze di Twitter praticamente da ieri sera. Da ieri sera, sì, una cosa per quanto mi riguarda assolutamente inaspettata, ecco. Oggi c'è il buon Matteo fuori di sé dalla contentezza, tutti noi estremamente stupiti e vedremo, insomma. Benissimo, sentiremo cioè, se useremo abbastanza questo termine anche nel linguaggio comune per farlo entrare dunque in un dizionario. Grazie a Margherita Aurora, appunto insegnante della scuola Marchesi di Copparo, siamo in provincia di Ferrara. Nella seconda parte della trasmissione, adesso come sempre andiamo a sentire che cosa succede sui mercati. Nella seconda parte della trasmissione andremo a parlare con Claudio Pezzi. Chi è? È l'avvocato di Eleonora Beck, una delle due donne protagoniste del ricorso presentato al Tribunale di Bologna oggi alla Corte Costituzionale e respinto perché dichiarato inammissibile sul tema della stepchild adoption, ossia l'adozione del figlio del partner. E cercheremo di capire da lui che cosa rappresenta questa sentenza, perché poi al di là delle decisioni politiche che vengono prese, spesso intervengono i giudici con delle prassi. E poi ci collegheremo con l'inaugurazione di Milano Moda Donna. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. In primo piano tornano le unioni civili perché c'è un nuovo scontro all'interno della maggioranza con Beatrice Lorenzin del nuovo centrodestra che dice non basta lo stralcio della stepchild adoption, e la minoranza del PD che dall'altra parte dice altri cedimenti al nuovo centrodestra non sono accettabili. È stata bocciata, come avete sentito, la legge della Regione Lombardia per vietare la costruzione di moschee. Salvini attacca e dice la Consulta è islamica. La stessa Regione Lombardia starebbe pensando ad una nuova legge. Il caso Iara, al processo parla una testimone, dice Vidi Bossetti, una ragazzina con l'apparecchio che saliva sull'auto con lui. La Francia conduce operazioni segrete in Libia, lo scrive Le Monde, ipotesi di un piano BIR per il paese con la divisione in tre e la Tripolitania affidata all'Italia. La borsa. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Un paio di aggiornamenti prima di passare al prossimo argomento. Il primo arriva dall'Ungheria, dove il premier Viktor Orban ha annunciato un referendum sulle quote dei migranti nell'Unione Europea. Il primo ministro ne ha parlato alla stampa subito dopo la seduta appunto dell'esecutivo. E l'altro riguarda un ulteriore aggiornamento per quanto riguarda le unioni civili, l'annuncio del sottosegretario alle riforme Luciano Pizzetti, che dice non ci sarà nessuno slittamento stasera dopo la fiducia al milleproroghe, saremo in aula al Senato appunto con il maxi emendamento, dice mettiamo la fiducia e votiamo entro domani. E visto che siamo più o meno in tema, ci vogliamo occupare adesso della sentenza della Corte Costituzionale arrivata oggi, che ha dichiarato inammissibile il ricorso sul caso di due donne sposate negli Stati Uniti che si erano trasferite a Bologna e che chiedono il riconoscimento dell'adozione delle due figlie, insomma la cosiddetta stepchild adoption, ossia l'adozione del figlio del partner, in questo caso reciproca. Siamo con Claudio Pezzi, che è l'avvocato delle due donne, o di una delle due, non ho capito bene. Avvocato, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, io rappresento una delle due donne, l'unica che, avendo anche la cittadinanza italiana, poteva adire la giurisdizione italiana e chiedere il riconoscimento della sentenza straniera di adozione. Allora, che cosa rappresenta questa sentenza della Corte Costituzionale? È effettivamente così importante? Mette un punto oppure no? No, dunque, intanto questo è un comunicato stampa, quello che tutti conosciamo. Comunicato stampa redatto anche molto rapidamente e non contiene tutti gli elementi, può definirsi anche sommario, non dettagliato, in riferimento a quello che sarà la decisione completa che verrà pubblicata presumibilmente fra qualche settimana in Gazzetta Ufficiale. E quindi allora solo in quel momento vedremo che cosa contiene. Diciamo che dal punto di vista dell'interesse diretto delle mie assistite, la madre, la figlia, la coniuge, quindi la famiglia americana, non c'è necessariamente nulla di negativo, anzi si potrebbe già interpretare in senso positivo, perché fra poche settimane, pochi mesi tornerà il caso a Bologna e a Bologna dovrà essere assunta una decisione che non vedo per quale motivo debba essere negativa, anzi all'interno della decisione della Corte si potrebbero rinvenire degli elementi di carattere positivo, interpretativi. In sostanza la Corte che cosa dice, volendogli dare un significato, perché è anche difficile riuscire a capire dal comunicato stampa cosa c'è scritto. Dice, la questione sollevata dal Tribunale, ricordiamo che questo è un caso davanti alla Corte Costituzionale fra il Tribunale e la Corte. Il Tribunale rileva degli elementi di incostituzionalità in norme italiane che dovrebbe applicare e quindi su questo sospetto di incostituzionalità presenta alla Corte la domanda di valutazione. La Corte dice, non c'è questo sospetto di incostituzionalità dell'articolo invocato, in particolare il 35 della legge adozioni, perché il tema dell'ordine pubblico è una questione che attiene alla domanda di adozione internazionale. Ecco perché quel richiamo nel comunicato stampa. Ora, per essere chiari, però avvocato, ce lo spieghi per favore in maniera il più semplice possibile e poco tecnica, può. Bene. Allora, questo è un caso di due donne coniugate fra loro che hanno chiesto il riconoscimento di un'adozione resa da un tribunale americano e quindi vogliono la piena efficacia di quella sentenza di adozione anche all'interno del nostro ordinamento, perché nel frattempo una di queste donne ha visto riconosciuta anche formalmente quella che già aveva, cioè la cittadinanza perché è figlia di una italiana e quindi dice nel mio progetto di vita ci può essere anche stabilirmi in Italia o i miei figli stabilirsi in Italia devono godere appieno di quei diritti che sono riconosciuti ai cittadini in relazione al loro status familiare che è di figlia mia. Benissimo. Oltre che della madre biologica. Per fare questo serve il riconoscimento della sentenza straniera. Okay. Il tribunale ha pensato che la relazione di matrimonio di una coppia omosessuale potesse costituire un limite invalicabile alla luce delle norme italiane. La sentenza della Corte Costituzionale dice che non è il problema. Non è questo il problema. Cioè il problema invece, dice la Corte Costituzionale, è il riconoscimento di un'adozione avvenuta in un altro paese. Questa è la sostanza della cosa. No, dice, nemmeno. Questo problema, dice la Corte, potrebbe nascere se vi fossero due cittadini italiani sposati fra loro che andassero a richiedere ottenessero una sentenza di adozione all'estero la volessero riconosciuta in Italia, cioè andassero all'estero, si sposassero là, due cittadini dello stesso sesso. Mentre invece essendoci una cittadina straniera e una cittadina italo-americana, invece non questo problema non c'è. Potrebbe essere anche positiva la valutazione di dire non c'è questione di ordine pubblico in relazione al matrimonio fra persone dello stesso sesso avvenuto all'estero, in relazione ad un'adozione. Questo quindi è il punto e mi sembra a questo punto che riguardi molto il caso specifico e molto poco si possa ampliare a livello generale, avvocato, giusto per chiarire. Esatto, dice bene, probabilmente riguarda solo il caso specifico e o casi simili, per intenderci, ma non appunto coppie italiane che appunto vogliano applicare la stepchild adoption, posto che avvocato, molto brevemente, in realtà i tribunali finora hanno dato molte ragioni alle coppie omosessuali che hanno voluto il riconoscimento appunto dell'adozione del figlio del partner, no? Mediamente. Guardi, qui si va dietro anche ad una giurisprudenza che poi ha un'efficacia nei confronti del nostro ordinamento della Corte di Strasburgo che interpreta la Convenzione sui diritti dell'uomo, secondo la quale l'espressione coniuge non è definita dal genere della persona, quindi maschio o femmina non fa differenza, e secondo il quale l'adozione dei minori da parte di coppie omosessuali non costituisce nessuna questione giuridica rilevante, quindi l'elemento dell'orientamento sessuale e del genere della persona nella coppia è assolutamente irrilevante, ma perché? Perché si guarda al supremo interesse del minore, che è il faro della valutazione di tutte queste valutazioni attorno, tanto dei tribunali, tanto dei tribunali quanto della Corte di Strasburgo. La ringrazio, grazie all'avvocato Claudio Pezzi anche per i chiarimenti, chiedo scusa per l'attesa alla collega Raffaella Calandra che è in linea da un po' e che è all'inaugurazione di Milano Moda Donna dove c'è il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Raffaella, eccoci. Sì, Simone, buongiorno. Mi trovo all'interno della sala delle caveatidi di Palazzo Reale a Milano, dove il premier Matteo Renzi sta pranzando in questo momento con i big della moda, a cominciare da Donatella Versace, che poco fa ha chiesto e ottenuto per lui un applauso da parte di tutta la platea, e da Gianni Armani, che entrando ha commentato questo debutto, questa prima volta di una premier alle sfilate della moda, notando come in passato non sempre questo settore ha sentito, ha detto, la politica vicina. Tra poco il premier parlerà alla platea di invitati, dopo essere stato questa mattina invece a Lodi, dove ha inaugurato uno stabilimento che ha fatto più di 100 assunzioni col Jobs Act, e lui lì ha preso l'impegno di un anno per dare fiducia, ha detto, all'Italia che è stanca, ha notato ancora Renzi, di chi critica soltanto. Nel pomeriggio invece, a conclusione di questa giornata milanese del premier, al Teatro Piccolo parlerà del futuro del sito Expo, ma saremo a vedere quanto il premier soprattutto tra poco dirà questa ristretta platea di invitati del mondo della moda quali saranno le sue indicazioni. Ne le racconteremo, Simone. Grazie Raffaella Calandra. Un aggiornamento che arriva dall'Egitto, è un aggiornamento importante perché è un comunicato del Ministero dell'Interno sulla morte di Giulio Regeni. Secondo il comunicato del Ministero dell'Interno, appunto, si tratterebbe di un omicidio premeditato per una vendetta causata da motivi personali. Le indagini, sostiene questo comunicato, avrebbero accertato che la vittima aveva numerose relazioni con abitanti del quartiere nel quale viveva. Questo comunicato sicuramente farà discutere, torneremo a parlarne nell'arco della giornata. Prima di andare a sentire Mario Platero che ci racconta di Donald Trump, ci sono i dati di oggi dell'Istat su fatturato e ordinativi dell'industria. Il progresso annuo è di appena 2 decimali, in apparenza sconfortante, anche se per i ricavi dell'industria si tratta pur sempre del primo recupero dopo 3 anni in rosso. Ma a zavorare i dati Istat è soprattutto l'energia, affondata dal crollo del greggio, con la manifattura a chiudere l'anno con un più rotondo progresso dell'1,8%. Nulla di clamoroso dopo i cali degli ultimi anni, con un gap ancora di 105 miliardi rispetto al 2007, anche perché dicembre, formalmente con una giornata lavorativa in più, quasi certamente però cancellata dal ponte dell'Immacolata, getta altra sabbia negli ingranaggi, con un calo tendenziale dei ricavi del 3% diffuso a tutti i comparti produttivi. Ci si può consolare però con gli ordini, protagonisti della miglior performance dal 2010, grazie finalmente alla ripresa del mercato interno, dove le commesse crescono in media di quasi il 9% nel 2015. Commesse nazionali quanto mai benvenute nel momento in cui invece la domanda estera è rallentata dalla crisi degli emergenti, una preoccupazione sintetizzata da un calo del 6% per gli ordini oltre confine a dicembre. Luca Orlando, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.